l'oscurità univa furia nostra. C'è fri di nive un filo e luci non te ganuscio più. Scurità e ta tua menso a sta animali io non ci faccio più e appicciati sta vita se ne va. Sta vita se ne va. Volessi disegnare doce lusti colura scoretta non scappare. Io sento due sapori potessero annurbare domani me patruna. Te sento allontanare, poi non te vedo più. Scurità, o sole se ne vuantura, a terra brucia e non c'è pedra che brucia come a me. Scurità, me mangi carne a pizzi cuna, da sta fornaci senza vento per me portare a te. Per me portare a te. Volessi commigliare sti curmi di rasciura, ma sento a rimuggiare, ma manco tu sapori. Dare una carcagnata dopo una stipagiona, pigliare a tempo l'uni. Stamore che hai per te, stamore che hai per te, stamore che hai per te.